La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, come ogni sabato, a raccontare tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il grande schermo. Una settimana veramente estiva, molto molto estiva, non solo per la calura che ha invaso, finalmente verrebbe da dire, un po' tutto lo stivale, ma anche perché a livello di uscite cinematografiche non è esattamente la settimana di punta per quanto riguarda i film più attesi, i cosiddetti blockbuster, ma come sempre c'è da andare a cesellare, c'è da andare a lavorare dentro la programmazione per scoprire che qualche cosa da vedere, qualche cosa di buono da vedere c'è sicuramente. Noi ne parleremo durante questa trasmissione, nella quale come sempre giocheremo anche insieme con il nostro film misterioso, vi daremo delle tracce da indovinare per provare a vincere i Blu-ray dei più bei film della stagione e della storia del cinema. Quindi state con noi fino in fondo a questa nostra trasmissione, che comincia con un film bello, leggero, simpatico, leggero nei modi, grazioso, ma con sentimenti, con contenuti, con un tema forte al centro, che è quello della maternità, la storia di una ragazza di 30 anni che finalmente, lei è tutta calcolatrice, tutta così, finalmente ha deciso di avere un figlio da sola con l'inseminazione artificiale, ma chiaramente Cupido era lì dietro l'angolino dell'Empire State Building, scaglia la sua freccia proprio in quel momento, l'amore sconvolge tutto, è il piano di Maggie. Hai bisogno di un bambino? Ti ricordi di Guy Childers? La stagione 1. Ha consentito a fare una donazione così che possa fare l'inseminazione. È il miglior cetriolo che abbia mai assaggiato. Quanto vuoi essere coinvolto in tutto questo? Io ti suggerisco di non esserlo. Forse esiste una possibilità che possiate tornare insieme. Ci stai manipolando tutti per giungere a un qualche assurdo lieto fine. Via, via. Via. Vattene da casa mia, via. Ok, me ne vado. Ti prego, vattene. E allora, una scena del piano di Maggie di Rebecca Miller con Greta Gerwig, che ancora una volta vediamo in questa stagione, è stata protagonista di diversi film, è sicuramente un'attrice che sta scalando un po' i livelli del cinema americano, di un cinema, diciamo, indipendente o finto indipendente in un certo senso, con quella sua faccia un po' così, con quelle espressioni naturali, la capacità di essere assolutamente anti-diva e anti-eroina. E poi Ethan Hawke e Julianne Moore, quindi due nomi grossi nel cast di questa, che è una commedia newyorkese tipica, ha quei ritmi, però non vuole andare a cercare, diciamo così, altri piani un po' più nevrotici, lavora più magari con un po' più di sottrazione rispetto che di addizione. Di questo noi ci facciamo dare conferma, se sarà il caso, da Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Io confermo assolutamente, Maggie's Plan è sicuramente la proposta più interessante di questo fine settimana, e lo è per lo stesso motivo per cui potrebbe non esserlo, cioè Greta Gerwig. Greta Gerwig ha il pregio e la centralità nel film, che ormai gli dà quel cinema indipendente di cui parlavi, che è un cinema indipendente che viaggia tra le esigenze dei millennials più o meno precari e quel racconto di una generazione indefinita, soprattutto per chi la guarda. Qual è il problema del film, ma anche il pregio? Il problema appunto è Greta Gerwig, che nel momento in cui compare tu capisci che vedrai una storia di una giovane più o meno talentuosa che fa un lavoro più o meno improbabile, in questo caso appunto cercare di aiutare artisti emergenti, qualcosa che non si capisce che sia un impresario, un agente o qualcosa del genere, e che ha in sé una malinconia e una insoddisfazione di fondo che sembra connaturata non solo al suo viso ma alla sua generazione, e questa la rende a metà tra uno stereotipo e un archetipo e rende più o meno prevedibile il film. Il vantaggio è che rispetto ai passati film di Greta Gerwig, che ormai in quel tipo di cinema è una diva senza se e senza ma, e sta diventando appunto un'icona per lo stesso motivo per cui sta diventando uno stereotipo, un archetipo, c'è il fatto che c'è una leggerezza maggiore, cioè Maggie's Plan, nonostante racconti l'inseminazione artificiale, il dramma più o meno vero della singoltudine, insomma lei un po' se la cerca, un po' la subisce, quindi della solitudine in generale, ha una leggerezza che in passato non c'era, un po' perché ci sono comprimari di alto livello come Maya Rudolph, Bill Lader, e perché Julianne Moore è bravissima in questa parte di eccentrica antropologa, un po' perché è difficile prendere sul serio anche la storia tra Nathan Hawke e Greta Gerwig, che ha le stimmate di tutte quante quelle storie d'amore tra artisti, tra radical chic. Alla fine il film però va leggero, non ha particolari pretese, non vuole essere un film d'autore tout court, e quindi piace sia al pubblico sia al critico un po' più esigente. Diciamo che è un film anche molto furbo in questo, ma sicuramente riuscito. Sicuramente riuscito, quindi Il piano di Maggie, la prima proposta di questa nostra settimana, che va ad impattare su una classifica che la settimana scorsa è stata abbastanza morbida, diciamo così. È la prima settimana in cui nessun film in tutta la settimana ha superato il milione di euro di incasso. Infatti il film più visto, non del weekend, ma di tutta la settimana scorsa, è stato The Conjuring, con 934.000 euro. Poi a seguire Angry Birds, Now You See Me 2, Conspiracy, e poi qualche lunga tenitura come Alice attraverso lo specchio, per esempio, o Warcraft. Decimo posto ancora per La pazza gioia di Virzì, che, come dire, potrebbe proseguire ancora settimane e settimane con delle sue nicchie di spettatori che non lo hanno ancora potuto vedere. E allora, questa è la situazione. Io ricordo anche che ovviamente La Rosa Purpurea non si dimenticherà e non dimenticherà in questa puntata, che arriva ben qualche giorno dopo, ovviamente, la scomparsa di Bud Spencer, non si dimenticherà, dicevo, di questo questa icona assoluta del nostro cinema popolare. Fra poco, dopo aver analizzato ancora un paio di film in uscita, ci sarà tutto un blocco dedicato proprio al Bud Spencer, con due testimonianze davvero d'eccezione. Adesso Viabilità, fra poco torniamo insieme con Cattivi vicini. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea prosegue, come dicevamo, con un'altra commedia americana, questa sicuramente più spinta in termini proprio di linguaggio e di situazioni. È un sequel, Cattivi vicini 2, qualcuno di voi ricorderà qualche stagione fa, un paio di stagioni fa, Cattivi vicini, con uno Zac Efron scatenato nei panni di un party boy, di un ragazzo appunto un po' scapestrato, che con i suoi amici va a vivere in una villetta di fianco a quella di una giovane coppia che sta cercando di mettere su famiglia. Due mondi completamente opposti, indovinate un po' chi è che soccombe. Era stato un film anche politically correct, quindi aveva avuto anche il suo fascino per quello. Adesso si torna con Cattivi vicini 2, la situazione più o meno la stessa, i personaggi anche, ma tutto succede questa volta al femminile. Abbiamo venduto la casa! In realtà non l'avete ancora venduta. Dobbiamo venderla per pagare quella che abbiamo appena comprato. Devono passare 30 giorni. Se tutto andrà bene, la vendita sarà conclusa. Ma che cavolo succede lì? Ah, è la nostra sorellanza. Non ci credo che una sorellanza sia trasferita qui. Ora che facciamo? Non ti preoccupare. Le ragazze fanno poco casino. Luca! Non si fanno di droghe pesanti. E sono più intelligenti. Dove sono? Chi è? Smettetela! Boris, sostituisci il clan di ragazzi assatanati di sesso, droghe e rock and roll con una sorellanza, avete sentito, le consorelle del Kapanu, come si chiama questo clan, e il gioco è fatto. Ti dico, ti chiedo, è fatto davvero o insomma è una scorciatoia? Ma neanche un po', secondo me, ed è un peccato perché l'idea era anche interessante, quella di Stoller, perché al di là del rovesciamento anche piuttosto banale, no? Passare da una confraternita di ragazzi a una consorellanza di ragazze non era proprio chissà quale straordinaria idea, però era interessante tirar fuori la commedia politicamente scorretta, quella commedia comica femminile, dal genere matrimoniale da cui era iniziata, sostanzialmente o riniziata, con le amiche della sposa, Bachelorette. E il problema è che qui però Stoller passa dal politicamente scorretto e da uno Zac Efron splendidamente utilizzato, forse per la prima volta come attore, a quella commedia che piace molto negli Stati Uniti e che ha anche un suo pubblico e anche una sua dignità, che è quella commedia che non ha paura di spingere sulla volgarità. Qui avrete, insomma, non so come spiegarlo, però varie reazioni fisiologiche utilizzate come arma per irritare o colpire i nemici, ecco, sono stato molto diplomatico, cercando sempre di alzare l'asticella del buon gusto, anzi abbassarla, l'asticella del buon gusto. È un peccato ancora di più perché Chloe Grace Moretz poteva essere molto interessante in un ruolo del genere, è anche brava. L'inizio della presentazione di queste ragazze tutte marijuana, scherzi terribili e via dicendo è interessante perché sembrano superare addirittura gli uomini che avevamo visto in Cattivi Vicini, e poteva essere anche interessante quello Zac Efron usato come insider sostanzialmente, cioè come unico esperto capace di poter aiutare i Radner, cioè l'arcinemico che diventa arciamico. Però tutto questo viene utilizzato in una struttura di sceneggiatura molto fragile, molto labile, senza mai un picco se non appunto quello del cattivo gusto. E dall'altra parte non c'è un vero sforzo di cambiare rispetto al passato, di andare da qualche altra parte, cioè il cambiamento di sesso è semplicemente un espediente e non la voglia di fare qualcosa in più, e quindi più che un sequel sembra semplicemente una cover fatta appunto da donne invece che da uomini, è una cover brutta, cioè una cover di quelle che insomma nessuno vorrebbe ascoltare. E tra l'altro pare essere un po' la stagione delle cover, perché ricordiamo arriverà il Ghostbuster al femminile, del quale chiaramente ci auguriamo qualcosa di più ma temiamo qualcosa di meno, quindi tutto sommato sarà anche lì un banco di prova. Sta diventando un po' appunto una via anche forse troppo facile quella di rifare cose semplicemente guardandole da quel punto di vista, ma insomma si sa, il cinema va anche un pochino a cicli, e quindi adesso evidentemente questa è una vena che si sta un po' andando a esplorare. Allora, Cattivi Vicini 2, quindi il secondo film di cui abbiamo parlato in questo fine settimana, fra poco approcciamo un altro film che arriva dagli Stati Uniti, si intitola American Ultra, però prima è il momento di giocare insieme e come sempre cominciare ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Mi piace la sua pelliccia? No. Ha freddo per caso? No, ma spero di andarmene presto. E allora, se avete già capito di che film si tratta, siamo un po' indietro con gli anni, però si tratta di un film che nei suoi anni aveva avuto un grandissimo successo, era diventato un film di culto, aveva un attore protagonista che, come dire, in quegli anni appunto era sicuramente un numero uno. Allora io chiedo al nostro regista Peter se ce lo fa riascoltare, perché forse la clip era veramente un pochino breve e il film è un pochino indietro con gli anni. Sentiamo. Mi dia la sua pelliccia? No. Ha freddo per caso? No, ma spero di andarmene presto. Ecco, allora, se avete indovinato di che film si tratta, vi abbiamo anche dato il secondo ascolto. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, e provate a vincere uno dei due Blu-ray di questo film, che è stato riproposto recentemente in alta definizione e di cui fra poco vi faremo ascoltare una seconda traccia, ma prima della fine della trasmissione vi daremo anche la soluzione. E allora, avanti con le proposte sul grande schermo, ci trasferiamo adesso, anzi in realtà facciamo un piccolo passo, ma un grande passo in termini di qualità attoriale, perché Kristen Stewart, Jesse Eisenberg sono i protagonisti di American Ultra. È una roba seria questa cazzo di proposta di matrimonio, sei un negro sensibile. Io la amo. Devi dare tutto quando ami così una persona. Ti va un acido in un locale a luci rosse? No, sono le 8 del mattino. Che succede? Ho ammazzato due persone. Fantastico. Avevano una pistola e un coltello e mi hanno aggredito. Hai chiamato la polizia? No, non l'ho chiamata. Sono pieno di erba e funghi dentro la macchina. Powell è stato attivato. Era armato di un cucchiaio, signore. Di un cucchiaio? Mi capitano cose molto strane. Non faccio che ammazzare persone. C'è la possibilità che sia un robot. Tu non sei un robot. Prendiamo la mia auto e andiamo da Rose. Vuoi farti una canna adesso? Ok, no, forse è meglio di no, hai ragione, scusami. Boris, un film che lo avete capito anche dall'atmosfera del trailer, dondola fra commedia e film d'azione, con le hit del momento, con uno sguardo appunto a quel mondo un po' off, sesso, droga e rock and roll anche in questo caso. Prima di raccontarlo un po' e di valutarlo, non si rischia un po' che questo film si mangi il già labile pubblico di questa estate con, per esempio, Cattivi Vicini 2? Sì. C'è, anche perché mi sembra sempre di più che quel tipo di cinema abbia guadagnato in centimetri di pelle coperti, insomma sia diventato più moralista per quanto riguarda i nudi e vario altro, e cerchi di calcare la mano sugli argomenti, sul tentativo di essere appunto apparentemente politicamente scorretti. American Ultra è Molto buffo perché il regista è Max Landis, è la sua opera seconda, lui è il figlio di John Landis e sembra davvero il tentativo di rifare John Landis in questo periodo, mettendo insieme Animal House, Born Identity e pure un filo di Akira, insomma, tanto per essere un po' più originali. Credo che comunque sia American Ultra vada a pescare un pubblico più nobile di quello di Cattivi Vicini 2, anche per le facce che ci sono, Jesse Eisenberg e Kristen Stewart, a differenza appunto di Zac Efron, probabilmente la selezione all'entrata la faranno i visi delle locandine. E anche poi una diversa qualità, American Ultra in alcuni momenti denuncia il fatto che è cresciuto in una realtà molto, molto cinematografica e molto strutturata, perché sembra quasi un manuale di come fa un film, è quasi troppo perfettino nel calibrare i ritmi della sceneggiatura con le inquadrature e anche la capacità di togliere in particolare a Jesse Eisenberg e Kristen Stewart quella patina che si sono costruiti addosso in tanti altri film più o meno commerciali o più o meno d'autore. Manca il guizzo di John, forse però c'è un aspetto interessante che è quello del progetto, che invece di essere furbo e poco riuscito come quello di Cattivi Vicini, è il progetto di un tipo di racconto che normalmente non vediamo, di un tipo di narrazione e di visione che può essere profondamente diverso e originale. Il punto è che non lo è ancora, ma se devo scegliere tra American Ultra e Cattivi Vicini 2, io perlomeno non ho alcun dubbio, perché comunque parliamo di un film ampiamente sopra la sufficienza, parliamo di attori bravissimi che si mettono alla prova e parliamo anche di una sceneggiatura che ti tiene abbastanza incollato alla sedia, rimanendo sotto i 100 minuti peraltro. E quindi, insomma, promosso American Ultra nelle sale italiane. Abbiamo detto prima della classifica del nostro paese, vanno diversamente le cose negli Stati Uniti, dove si sa l'estate cinematografica è alta stagione, con Alla ricerca di Dory che rimane al primo posto e ha già raggiunto quasi 300 milioni di dollari di incasso globale, e questo è un film che chiaramente si avvia ad entrare nell'Olimpo dei primi 10 film come incasso generale nella storia dell'animazione Disney. E poi al secondo posto Esordio, forse si poteva sperare di più, ma comunque non male, di Independence Day Regeneration, anzi Resurgence per quanto riguarda il titolo originale, di Roland Emmerich, con 41 milioni di dollari. È il primo weekend per questo ritorno molto atteso di Independence Day, che si piazza al secondo posto. Va molto bene, tanto per dare un riferimento con le sale italiane, The Conjuring, il caso Enfield, che in America sta veleggiando verso i 100 milioni di dollari di incasso globale. Questo a dire quanto quel genere sia assolutamente vivo nei cinema americani. A questo punto noi diamo la linea alla regia, tra poco torniamo insieme. Prendiamo uno stacco, un attimo, una pausa dalla programmazione delle sale, sulla quale torneremo fra una decina di minuti. Prima però ci dedichiamo a Bud Spencer. La rosa purpurea. Having me for fun in my buggy. Abbiamo detto, è il momento di occuparci di Bud Spencer, che ci ha lasciato questa settimana sulle note della canzone resa famosa dal film Altrimenti ci arrabbiamo, che è stata anche il leitmotiv del momento di solito più triste, quello del funerale, invece di un momento di grande, non voglio dire allegria ovviamente, ma di grande serenità, perché questa canzone, questo ritmo visto in mezzo alla gente, alla sua gente che era accorsa a dargli l'estremo saluto, insomma faceva un effetto veramente strano, però capivi che era il suo spirito, era il suo pubblico, era il suo popolo. E noi lo ricordiamo veramente così, e lo vogliamo fare con chi gli è stato molto vicino, lo ha conosciuto molto bene, ci ha lavorato insieme parecchio. Stiamo parlando di Lorenzo De Luca, scrittore, sceneggiatore, autore anche di un libro proprio con Bud Spencer. Lorenzo, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea in questo momento in cui un grande, un'icona del nostro cinema popolare, uno con cui siamo cresciuti un po' tutti, ci ha lasciato lasciato e, come si suol dire nel caso dei grandi del cinema, però ci rimangono i suoi film, ci rimane quel suo sorriso burbero e sornione che sicuramente ha popolato le nostre notti di ragazzi. E Buzz era un uomo, anzitutto dal punto di vista proprio della sua vita privata, era un uomo molto simile, diciamo era l'80% come lo vedevate nei film, era un uomo positivo, ottimista, buono ma non buonista, bonario, sornione, generoso, e si è sempre gettato alle spalle le difficoltà e non ne ha avute poche, ti assicuro, anche prima della carriera cinematografica, con un serafico futte tenne, cioè che era la sua maniera di reagire ai guai della vita senza farne una tragedia. Di un po' tu, era tuo amico quello? Io non ho amici. Senti che odore, sono fagioli con le cipolle, eh? Ah, è vero. Sì, è vero, però sono miei. Ecco, Lorenzo, dicevo, tu hai scritto anche un libro con lui, nel quale quattro. Si era... Ecco, io mi riferivo soprattutto all'ultimo, perché mi sembrava, come dire, che lui si fosse un po' più rivelato, perché è vero quello che tu dici, uomo positivo e tutto, ma anche uomo molto riservato in sé, non si è sentito parlare molto fuori dal set di lui. No, no, perché lui diceva che la sua vita era stata improntata a un valore che oggi purtroppo nel mondo in cui viviamo e soprattutto in cui siamo martellati dai media, e lui aveva improntato tutta la sua vita a quella che lui chiamava la decenza, cioè la dignità, ossia il fatto di mantenere un certo riservo per quello che erano la sfera personale, gli affetti personali, ma anche un occhio un po' distaccato verso il modo in cui lui stesso era percepito dal pubblico, perché ad esempio quando gli arrivavano lettere di ammiratori dalla Cina o quando arrivava un suo ammiratore a visitarlo a casa, che era addirittura non vedente dalla nascita ed era diventato un fan di Bud Spencer semplicemente sentendo i film, quindi guardandoli con gli occhi del cuore, se vogliamo, tutto questo lo stupiva, lo inibiva, lo faceva sentire, lo intimidiva quasi, perché lui non riusciva a capire per quale, cioè sapeva di avere propagandato nei suoi film determinati valori che tutti conosciamo, che erano per l'appunto la bontà, la lotta per la giustizia, la simpatia, eccetera eccetera, ma era assolutamente stupefatto di come la sua figura venisse recepita nel mondo, perché lui era molto umile e non sentiva di meritare tutto questo affetto. Senti Lorenzo, appunto il libro Mangio Ergo Sum a cui mi riferivo io ha veramente questo incontro di filosofie, no? Cioè Bud che si incontra i grandi filosofi del passato e, diciamo, in un certo senso contrappone la sua filosofia fatta di grande praticità, no? Com'era a livello filosofico la figura di Bud Spencer? Detto, la sua filosofia principale era futte tenne, ossia non drammatizzare anche i guai quelli grossi, perché pochi sanno, credo anzi che si sia venuto a sapere solamente quando scrivemmo la prima autobiografia nel 2010, altrimenti mi arrabbio, pochi sanno che per esempio Bud nel 74 o giù di lì fu colpito da un tumore mentre girava il film Porgi l'altra guancia, e è una cosa che poi affrontandola col suo solito spirito, che era quello di andare avanti, di non fare tragedie e di non dirlo neanche in giro, infatti non era una notizia di dominio pubblico, quando poi tornò per il check-up successivo scoprirono che il male era scomparso, e quindi non c'era una spiegazione logica, però i medici dissero che certamente l'umore, la forza d'animo con cui lui aveva reagito erano stati forse la medicina migliore. Allora, e naturalmente molta molta fortuna, però voglio dire, questo è uno degli episodi sintomatici di come era fatto Bud Spencer e Carlo Pedersoli, che erano sostanzialmente la stessa persona. Te la cavi ancora bene con la pistola? A proposito, grazie per l'aiuto. Erano solo in tre. Già, ma presto saranno in molti in questo dannato paese, quindi fratello mio è meglio che te ne vai prima che tutta la feccia dell'Ovest piombi qui con la voglia di misurarsi con te. No, io non cerco rogne. Ma se non sai fare altro. Qual è il film che gli somiglia di più? Ovviamente i grandi successi li conosciamo, eccetera, ma c'era un film nel quale lui si è sentito ancora più se stesso, in cui ha rivisto proprio Pedersoli? Guarda, tutti i film che Bud ha fatto, calcola che io ho iniziato a lavorare con lui nel 91, quindi sono circa 25 anni e lui era già Bud Spencer da un pezzo, anzi quando io ho iniziato a lavorare con lui le cose che scrivevo cercavano di staccarlo un po' dal cliché del gigante buono, perché era una serie televisiva extra large dove c'erano anche all'occorrenza sparatori e temi più scabrosi, se vogliamo, rispetto alla filmografia precedente di Bud. Però, tolto questo, in realtà c'era di Bud Spencer tutto in tutti i film che ha fatto, perché, ripeto, lui diceva di se stesso: io non sono un attore, sono un personaggio, e quindi recitare era un modo di recitare tra virgolette, perché era molto se stesso. Però se mi chiedi qual era il suo film che lui amava di più, nel quale aveva riversato un po' più di se stesso, della sua filosofia, era senza meno Banana Joe, perché di quel film lui diceva sempre: ho scritto anche il soggetto e aveva collaborato anche alle musiche, il film era diretto da Steno peraltro, ed è un film che, benché fosse divertente come tutti i film che ha fatto, è apparentemente leggero, però poi sotto, e neanche tanto tra le righe, parlava di che cosa? Parlava di antimilitarismo, era un film contro la burocrazia che stritola l'iniziativa delle persone, era un film che, diciamo così, denunciava tante cose che noi viviamo ancora oggi, tanti temi, però lo faceva alla maniera di Bud. Quindi quello era sicuramente il suo film in cui lui era più coinvolto personalmente, ma a livello di personalità, ripeto, c'era un po' di Bud in tutte le cose che ha fatto, proprio perché lui non era un attore d'accademia, quindi non aveva inventato una maschera, un personaggio studiando recitazione, era sostanzialmente così. L'unica differenza è che nella vita privata il vero Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli, ovviamente non menava e era meno naif di come appariva sullo schermo, perché era un grande studioso di, ad esempio, di filosofia. Il libro che tu hai citato poco fa, Mangio Ergo Sum, il terzo libro che facemmo, lo metteva proprio a confronto in maniera simpatica con i grandi filosofi del passato, perché lui diceva Cartesio ha detto cogito ergo sum, invece no, è mangio ergo sum, perché se prima non riempio la pancia non ho la forza di cogitare. Mi chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto. Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino. Faccia così, vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. Io sono Banana Joe e vorrei un certificato di nascita. Mi favorisca la sua carta d'identità. Ehi, ma che mi stai prendendo per il sedere? Senti, ti chiedo un'altra cosa. In tutta questa filmografia, un omaggio quasi alla carriera, se vogliamo, può essere interpretato il ruolo che gli ha dato Ermanno Olmi in Cantando dietro i paraventi nel 2003. Cosa ha pensato e cosa ti ha detto eventualmente Bud nel momento in cui fu chiamato da un maestro di quel livello per questo film? Mi ha detto tre cose. La prima è che a Olmi venne l'idea di chiamarlo mentre Olmi stesso era ricoverato in ospedale e la sera, non potendo fare nient'altro, guardava la televisione e incappava nei film di Bud che continuamente passavano una sera sì e l'altra pure in televisione. Gli venne così l'idea di chiamarlo, di chiamare il personaggio contro la parte, un po' come faceva Hitchcock o come fece anche Sergio Leone, cioè di prendere un attore che non era certamente legato a quel cinema. La seconda cosa che mi disse era che lui nelle mani di Olmi si era sentito come creda, ossia forse è stata l'unica volta in cui si è sentito attore nel senso di essere diretto, lasciandosi totalmente plasmare da regista, e tant'è che non c'era neanche, cioè Olmi non gli aveva detto neanche di seguire il copione che gli avevano dato. Quando poi stavano sul set lui faceva proprio esattamente quello che gli diceva Olmi, lasciandosi manovrare come un bambino, e si è divertito. E poi mi ha anche detto: in fondo io che rischiavo, perché al limite anche se avessi sbagliato alla mia età e con quello che avevo fatto, non, quel passo falso non avrebbe certo eliminato quello che ero riuscito a fare prima e l'affetto del pubblico, quindi non aveva nulla da rischiare ed era sempre un uomo in cerca di nuove esperienze, cose curiose da esperire. Quindi fu per lui un'esperienza emozionante che poi credo sia arrivata non molto prima del coronamento dei Davide di Donatello alla carriera a lui e a Terence. Adesso non ricordo esattamente gli anni di distacco fra le due esperienze, ma diciamo che il Bud dell'ultima stagione, il Bud, chiamiamolo anziano, anche se i personaggi del cinema non invecchiano mai, era un Bud più riflessivo, ma neanche troppo saggio. Lui diceva: io c'ho il corpo di un ottantenne, ma c'ho il fisico di un diciottenne. Il guaio nasce quando il cervello dice al fisico: fai questo, fai quello, ma il fisico non lo può fare. E allora sulle note di Banana Joe noi salutiamo Lorenzo De Luca, collaboratore, amico, sceneggiatore, scrittore, insomma, di Bud Spencer, per averci raccontato veramente, anche emozionandoci un po', la storia di questo grandissimo personaggio, grandissima icona del nostro cinema popolare che se n'è andato. Grazie Lorenzo. Grazie a voi, un bacio a tutti e ricordiamoci che Bud non morirà mai fin tanto che continueremo a vedere i suoi film. Grazie. E allora a questo punto noi andiamo a rigiocare insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Potresti sorridere almeno. Se sorrido mi viene la nausea, lo vuoi correre questo rischio? Ma che strana pettinatura. Stile moicano. È un cane? Una tribù indiana. E allora se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo fra poco, fra pochi minuti, mentre adesso torneremo a parlare dopo la viabilità di Cinema in Sala con Tokyo Love Hotel. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Allora, abbandonata la giusta, doverosa e gradita parentesi, gradita almeno sottoscritto, su Bud Spencer, perché insomma è stato veramente un personaggio con il quale siamo, la mia generazione è cresciuta di fatto con i film di Bud Spencer visti nei cinema di seconda e di terza visione, nei quartieri, nelle periferie, ma insomma era una presenza costante. Adesso torniamo per un attimo alla sala, torniamo per un attimo alle novità, perché c'era avanzato ancora un film di cui parlare e si intitola Tokyo Love Hotel. Dai, facciamolo. Che cosa faceva Satomi prima di venire qui? Chi finisce in posti come questo lo fa perché ha i propri motivi. Porto pazienza. Hai una prenotazione. Bene. Davvero le hostess guadagnano così tanto? Prego. La signora delle pulizie ha un'aria familiare. Alla 311 non arriva l'acqua calda nel bagno. Uno, due. Scusi, signora. Ecco così. Ma lei non può fare questo. Avete intuito, insomma, che l'hotel, questo Tokyo Love Hotel del titolo, è un hotel, come dire, di passione, ecco, potremmo dire. Tutto il film, con grande delicatezza, devo dire, è raccontato con gli occhi del suo giovane direttore che tiene un po' le fila di questo Atlas Hotel, nel quale convergono una serie di personaggi anche poco probabili, che vanno da ragazze fuggite di casa a vere escort, a vere pornostar, a finti datori di lavoro. Insomma, è un posto abbastanza particolare. Però, come dicevo, Boris, forse la cifra vera di questo film è la delicatezza, la capacità di raccontare questi temi senza andare particolarmente nel torbido. Ma assolutamente, volendo giocare con il titolo di un altro grande classico, potremmo chiamarlo L'impero decadente dei sensi, però come dici tu, all'erotismo preferisce l'umorismo, al sesso preferisce l'ironia, anche se poi, trovandosi in un hotel chiaramente in cui si consuma l'amore in tutte le sue forme, anche quelle più improbabili, soprattutto quelle più sfortunate, devo dire, francamente ha anche il coraggio di non negarlo né visivamente né esteticamente né come argomento, cioè non si nasconde dietro l'ironia ma lo veste d'ironia. È un film molto particolare perché è un film che ha delle dinamiche appunto grottesche più che divertenti. Si pensi solo alla figura del direttore d'hotel che trova insomma in quell'albergo, che penso di conoscere a menadito, dei segreti che non immagina, e forse è proprio questo il segreto, l'avrebbero dovuto chiamare Tokyo Secret Hotel e non Tokyo Love Hotel, perché quello che accomuna tutte queste personaggi non è solo il fatto di voler consumare l'amore, il sesso o anche la mercificazione dello stesso. Ci sono addirittura aspiranti lenoni, per non dire un'altra parola, all'interno delle camere, si produce in tutto questo una disvelamento neanche costante, neanche totale, appunto, di tutti questi segreti. Ed è forse la grande forza di questo film, sta proprio qui, di fronte a un argomento che facilmente avrebbe attirato l'attenzione degli spettatori, e di fronte all'idea dell'ironia ci si pone anche con una struttura drammaturgica che da una parte è semplice, perché divide esattamente la sceneggiatura, il film, in stanze, sia metaforiche sia fisiche, e dall'altra parte però in una complessità emotiva risolta con semplicità, dove la semplicità è l'immediatezza e non è invece la semplificazione. Tutto dà un risultato molto gradevole, molto interessante, anche molto sensibile, e alla fine ti dimentichi che sostanzialmente sei andato a vedere un film sul sesso, perché era tanto altro, e in fondo il sesso spesso è quello, è lo specchio di tutto il resto. E allora, Tokyo Love Hotel di Hiroki Ryuichi nei cinema italiani. Boris, io ti ringrazio e ti saluto, so che sei in un posto bellissimo a Ischia, al Festival delle Location, insomma il festival che ci fa vedere come il cinema ci fa vedere il mondo. Assolutamente sì, l'Ischia Film Festival, che si tiene tutto nel Castello Aragonese, ci sono ben 6 sale, dalla Terrazza degli Ulivi alla Cattedrale dell'Assunta, dove si è sposata Vittoria Colonna. Credo che, come ha detto Silvio Orlando, forse non è il festival più importante del mondo, di sicuro è il più bello, proprio perché si sta in un set, in una location straordinaria. La cosa interessante è che in un'isola che ha addirittura 2 festival, questo è quello diretto da Pascal Vicedomini, si è fatta una scelta d'autore, dove però arrivano anche le star. Domani per esempio verrà premiata Margarete von Trotta, però non si guarda solo a quello, perché ci sono ben 101 film, tra cui mi piace ricordare quelli documentari di altissimo livello e la sezione location negata, cioè tutti quei luoghi in cui non si può fare cinema perché ci sono guerre, perché ci sono ingiustizie di vario tipo, e in cui i registi, con la forza che ha solo il cinema, riescono a mettere una macchina da presa ovunque e a raccontare quel paese che invece è stato segretato da tutti gli altri. Quindi è veramente un piccolo gioiello che non è abbastanza promosso anche da noi giornalisti, ma che bisognerebbe andarsi a cercare, perché sia a livello di qualità sia a livello di impegno è molto molto forte. E allora ci sentiamo la prossima settimana, Boris, con tutte le novità al cinema. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora andiamo a dare un'occhiata a quello che c'è da vedere in casa, cominciando con il nostro game della scorsa settimana. Avevamo giocato con Kung Fu Panda 3. Ma io non so ballare. Ma certo che sì. Aiuto, Papini. Sì, no, fai da solo. Vai alla grande, figliola. L'avevano indovinato per primi Pietro Giovanni Trincanato di Verona e Jonathan Bandecchi di San Giovanni alla Vena, provincia di Pisa. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di Kung Fu Panda 3. Noi siamo in collegamento con Phil TV e con Giulio San Giorgio per farci raccontare questa edizione on video. Ciao Giulio. Ciao Franco, saluto i radioascoltatori. Sì, è il terzo capitolo della saga d'animazione DreamWorks, che è amatissima dai bambini, da chi ama il cinema orientale di arti marziali, ma anche da un filosofo come Slavoj Žižek, che la usa spessissimo questa saga per spiegare il mondo contemporaneo, quindi un oggetto un po' per tutti i gusti. Kung Fu Panda riprende la storia del pigro Panda Po, che con allenamento e introspezione Kung Fu ha scoperto di avere forze segrete dentro di sé, aiutando il suo popolo a sconfiggere i nemici e anche a far trovare alla casa di produzione un pubblico veramente vastissimo, perché questo film è veramente in grado di conciliare il mercato occidentale e quello orientale. È il nemico, uno dei nemici di Mario Adinolfi, perché crede che l'amore vada oltre il concetto di famiglia tradizionale, è figlio adottivo di un'oca ma anche un vero panda padre, e arriva nelle nostre videoteche con un Blu-ray d'ottimo riversamento e veramente colmo di extra, cioè il karaoke con Paul, poster del panda, istruzioni per origami, una serie di scene tagliate, addirittura un piccolo Kung Fu Panda in meno di 2 minuti. Quindi insomma è un oggettino veramente da avere, divertentissimo. Ce n'è di tutti, per tutti i gusti e per tutte le età, forse addirittura quasi il più bello della trilogia. Allora, andiamo avanti con le segnalazioni dei palinsesti TV. Lunedì 4 luglio, L'uomo che fissa le capre di Grant Heslow è su Rai Movie alle 19.15. Avevo sentito che il governo USA addestrava soldati psichici e che Link Cassidy era il migliore di tutti. Sono stato riattivato, sono in missione. Potrei venire. La storia di Lynn era incredibile, pazzesca e del tutto vera. Tutto a posto, siamo americani, la vogliamo aiutare. Che è successo? Mi sa che l'ho investito. Oh cavolo. Sì, come si è sentito dalla clip, è la storia di un reporter che scopre quello che potrebbe essere lo scoop della sua vita, ovvero che una frangia dell'esercito è addestrata per coltivare poteri psichici in modo da spiazzare il nemico, come cose del tipo attraversare muri con la forza del pensiero, colpire attraverso l'ipnosi, uccidere con il tocco della mano. Così il reporter va nell'Iraq occupato alla ricerca di conferme. È veramente un film divertentissimo, di satira antimilitarista, ma tratto da una storia vera, qui romanzata ma molto meno di quanto si crede, con grandi attori e addirittura un cameo di George Bush che da tempo diventa una sorta di icona nonsense. E questo quindi il primo consiglio, l'uomo che fissava le capre di su Rai Movie alle 19:15 di lunedì 4 luglio. Il giorno dopo, martedì 5, Amore tossico di Claudio Caligari su Rai Movie alle 2:05. Ce l'hai mezza piotta per roba? Oh, Giordi! E dammi 1.000 lire, dai! Ma no, non ti capisco, se sbattemo che mette insieme 4 lire e fa sta uno schizzo e tu devi aver gelato! È un autore consacrato post-mortem da quello che è il suo ultimo bellissimo film, che si chiama Non essere cattivo. Claudio Caligari invece si è occupato sempre di raccontare dove finiva la gioventù, il suo stare nel mondo. Aveva raccontato la Milano del 77, i giovani di una rivoluzione impossibile, che era soprattutto una questione di parole, di idee, di sogni, ma anche di tanti privilegi, di contraddizioni, di vizi di forma, in un film che si chiamava La parte basta. E con Amore tossico invece racconta la Ostia degli anni Ottanta, il sottoproletariato che Pasolini diceva essere ucciso dal mito del benessere, che ora per Caligari è diventata una società del consumo, letterale, perché i protagonisti consumano e sono consumati dall'eroina. È un grandissimo film che parla veramente di una fine di un periodo, una fine di un'utopia, con veri tossici come protagonisti, ed è uno scorcio antropologico e poetico davvero potentissimo. E allora, questo l'appuntamento con Claudio Caligari con Amore tossico su Rai Movie alle 2:05 di martedì 5 luglio. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra rosa purpurea. Prima però vi ricordiamo il game con cui abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di Subway di Luc Besson, 1985, Christopher Lambert protagonista. I vincitori la prossima settimana qui alla rosa purpurea, come sempre il sabato alle 18 su Radio 24.